sono Marco, chi è? Buonasera. Chi mi ha salutato? Buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera, sono il capo 2, che mi sono per Montanilla, mi ascolti? Già, ti ascolto, basso, basso, basso, perché c'ho molto QRM. E anche qui proprio è al limite di Santiago Segero, Massimiliano, buonasera, la voce, sì, sono stato per salutare, rimane il tuo vicino, perché c'è un sacco di QRM, quindi anche io non è che risponde, si viene molto. Va bene, ok, va benissimo, ciao Gianni, buona serata, buona continuazione, ci sentiamo alle prossime, ti saluto, ciao ciao. Ciao Massimiliano, buone cose a mia famiglia, io le sento lì. E ora, ora, 1, 2, 3, prova radio. E ora, 1, 2, 3. Quando dura 15 minuti un quarto d'ora veramente rompi palle, Comunque, non so se hai ascoltato, stiamo organizzando una piccola manifestazione per cercare di tirare sulla 27. Se vuoi partecipare, la porta è aperta. La prima parola che c'è, per cosa, come, dove, quando, come è stato organizzato? Allora, ti spiego in poche parole, cerco di essere abbastanza sbrigativo e non assillante. Perché poi stamattina sono andato ai vigili di Sassari, mi sono fatto dare una richiesta per il suolo pubblico, dunque giustamente bisogna compilare tutto il modulo, abbastanza semplice, ci vuole una fotocopia del documento di identità e la domanda deve essere consegnata, virgola, compilato ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta almeno 60 giorni prima della manifestazione. Ci vogliono due marche da bollo da 14,62 euro, dunque due marche da bollo. Siamo tra una cosa e l'altra, una trentina di euro. Copia del documento di identità e dopo che fai, che hai compilato con queste due marche da bollo, bisogna portare al protocollo generale Palazzo Ducale, piazza del Comune, per inoltrare la domanda. Meno male siamo un po' tutti, dunque tra una cosa e l'altra bisogna togliere la tasca 2 euro in modo da arrivare ad acquistare queste due marche da bollo da 14,62 euro. Poi il gas debole ce l'abbiamo, il banco per poggiare giustamente chi vuole portare i propri apparati per l'esposizione, la batteria l'abbiamo per far vedere le apparecchiature in funzione e far vedere come si comunica, l'antenna l'abbiamo, meno male abbiamo un po' tutto, dai, alla fine ognuno porta quello che ha e cerchiamo di tirare su questa baracca il meglio possibile, abbastanza presentabile, ecco, in modo da far conoscere la 27, chi l'ha conosciuta e chi non la conosce, in modo da dare la possibilità di tirare un po' su, in modo che non voglia del tutto la 27, ecco, una piccola manifestazione, giustamente bisogna decidere tutti insieme il giorno prestabilito, in modo che ci siamo tutti, e passiamo la serata tutti insieme in amicizia, in modo da non far morire la 27, niente di problematico, ognuno porta quello che ha giustamente, e piano piano si tira un po' su questa situazione. Positivo, quindi se ci vogliono già una sessantina di giorni, si parla a gennaio, giusto? Beh, tra una cosa e l'altra sì, dobbiamo trovare tutti insieme, concordi, un giorno giusto e il momento giusto, là, in modo da trovare la giornata giusta, in modo che ci sia la gente a piedi, in giro, là, in modo che è costretta a passare in quella via e quella curiosità si ferma e piano piano spieghiamo un po' la situazione, ben coordinata la situazione, ecco. Poi venerdì, guarda, io stamattina ho ritirato questa documentazione al comune che è di loro competenza, l'ho già fatto, però giustamente non ci ho pensato a far ancora la mia testa per andare alle poste centrali e ritirare la domandina che serve per avere la concessione. Dunque venerdì con la scusa che devo portare mia moglie a fare una visita, alle 9:30 c'è questa visita, tra una cosa e l'altra, 10:30 sono alle poste centrali e mi faccio dare alcune fotocopie per la domandina. Poi da lì si fanno le fotocopie, chi è interessato si avvicina e vengono distribuite, così vediamo una marcia in più in modo da avere nuove persone per modulare il 27, là diamo un'opportunità in più, questo me ne occupo anch'io di questo. Positivo, dove si svolgerà questo incontro, questa manifestazione, dove avete intenzione di farla? Ma sinceramente è tutto da decidere, 3-4 persone hanno pensato a Piazza d'Italia, che è un punto abbastanza frequentato, poi bisogna giustamente sentire anche le campane degli altri, in modo da avere una decisione definita, ecco. Dimmi tu il tuo pensiero, qual è? Poi ci decidiamo un giorno tutti insieme quando incontrarci in verticale e ne discutiamo, ecco, alla fine, tra una cosa e l'altra. E dimmi tu qual è secondo te un posto ideale per questa piccola manifestazione. Le idee sono aperte e poi le mettiamo tutti insieme in tavola e decidiamo la soluzione migliore, ecco. Tu cosa ne pensi? Qual è secondo te il posto migliore? Ma secondo me invece Piazza Italia è un po' sbagliato, nel senso che non è che ci sia tutto questo grande afflusso, ecco, in Piazza d'Italia. Poi giustamente dipende anche dal giorno, se la volete fare di mattina o di sera, questo dipende, capito, tante cose. Per me più che quella piazzetta è preferibile farla nell'altra piazza, Centro Azzurri, così si chiama, Centro Azzurri, di fronte, vicino a Piazza Tola, ecco, quella piazzetta che c'è lì su, per me. Ma io ho questo cazzo di rumore, maledetto. Se poca parola dove c'è Zara, quel piccolo giardinetto, diciamo, dove c'è Zara, giusto? Lì, se non sbaglio, stai dicendo. Guarda, dove c'era l'Ufin vecchio, diciamo, salendo, diciamo, da Porta Sant'Antonio, che adesso va bene, lì per il corso, ecco, alla fine del corso, visto c'è quella biforcazione, che c'è quella piazza lì in mezzo. Che poi si affaccia dove c'è la farmacia Pinna, lì stai dicendo che c'è anche una piccola edicola, giusto? Correggimi se sbaglio. Bravo, bravo, c'è un'edicola. Secondo me quella piazzetta lì è più frequentata di Piazza Italia, per me. Poi ti ripeto, dipende, Antonella, in che giorno la volete fare, se di mattina, di sera, perché se è una bella giornata, secondo me invece conviene più farla al quadrato, per me. Ah, ecco, anche con io l'idea. Sì, ma secondo me, diciamo, un posto vale l'altro. L'importante è che sinceramente bisogna trovare il giorno giusto e il momento giusto, non so, qualche ricorrenza. Bisogna guardare anche il calendario in modo da sfruttare bene l'occasione, capito? Sia del posto che del giorno. Sì, anche secondo me andrebbe bene sia per l'Italia che per Tacastello, che lì dicendo tu, lì Centro Azzurri, dove c'è Zara, oppure anche al quadrato. Però bisogna cercare di conciliare un po' anche il giorno, giustamente se c'è qualche ricorrenza col momento, con la scusa in cui, diciamo, la maggior parte di noi che non lavora c'è il giorno libero, senza nessun impegno. In poche parole bisogna cercare di concidere un po' tutta la situazione, ecco, anche questo qui è un'idea, e giustamente viene messa lì nel tavolo e tutti insieme decidiamo, perché no? Si può prendere anche questo qua in considerazione. È una mia idea così, perché ti ripeto, secondo me Piazza Italia non è che sia più frequentata lì villi, cioè prima magari sì, adesso ultimamente non è così frequentata, capito? Invece quella piazzetta lì, bene o male, alla fine del corso, sai, uno si fa una passeggiata a piedi, ci sono tanti negozietti e quindi magari se ti danno, che ne so, il posto pubblico prima, il suolo pubblico prima della Befana, ci sono altri tipi di bancarelle, capito? Cioè è da vedere anche questo, se lo volete fare, dipende di sera, di mattina, di sabato, di domenica, di settimana, cioè sono da vedere tante cose. Sì, infatti, pienamente d'accordo. Dunque, io personalmente, diciamo, sabato e domenica sono libero, senza problemi, invece per dire doppio room, che stavamo parlando, il libro sia di domenica che di lunedì sera, tu che arrivato a un certo punto, bene o male, tra una cosa e l'altra, sembra che vada bene di domenica, ecco, dovrebbe essere un giorno abbastanza libero per tutti. E dunque giustamente anche questo qui viene messo in tavola in modo da decidere tutti insieme. Sì, anche questo qui è una bella idea, periodo di Befana, periodo di Natale, tra una cosa e l'altra. Non è che abbiamo poi così tanti giorni a disposizione, ecco, tra una cosa e l'altra, tra la domanda, le feste, diciamo, di questa piccola idea, diciamo, è stata presa un po' la sprovvista, ecco, e potevamo giustamente approfittare con questa scusa delle feste natalizie. Quello già è vero, bisogna, diciamo, cercare di trovare la soluzione migliore, ecco, per non stare lì a fare buca tra una cosa e l'altra, deve essere positiva e ragionata nei minimi dettagli, pur essendo piccola, però sempre ragionata, ecco. Ripeto, meno male ci sono abbastanza partecipanti, ognuno mette il suo tanto nelle sue possibilità, che poi tra una cosa e l'altra arrivato a un certo punto, se partecipi anche tu, per dire, tra una cosa e l'altra dovrebbe essere 1,50 euro a testa, fino ad arrivare sui 30 euro per acquistare queste due marche da pollo. Poi Geneva Pirumo ha tolto questa idea, perché no, di avere delle magliette con la scritta di nominativi dell'associazione, e dunque quella è una cosa facoltativa, di ognuno dovrà mettere 15 euro a testa per la sua propria maglietta, per essere tutti uguali, ecco, deve dare una figura abbastanza importante. Anche questa qui è un'idea, dimmi tu cosa ne pensi. No, io invece per la maglietta non sono tanto d'accordo, lo sai perché? Allora, se le magliette, cosa sì, per esempio, 10 persone, ecco, queste 10 persone la devi fare tutto uguale, non è che ognuno si può fare la sua, perché non esce bella la cosa, capito? Cioè, chi sta lì sotto il gazebo, come dici tu, cioè deve essere vestito uguale, cioè deve essere una divisa, tipo una maglietta che sia tutto uguale per la gente che ci sta lì. Invece io sono più per magari un cappellino, uno si veste normale e si mette il cappellino, quando è se lo toglie, capito? Davanti nel frontale ci metti, cosa ne so, associazione, CB Sassari, 27 Mega, un esempio, il disegno della Sardegna, e ti fai un bel cappellino che ti rimane, e cosa ne so, magari ti viene anche 5 euro, però ti metti il cappellino e ti vesti normale, capito? E potrebbe essere anche qui un'idea, ma secondo me io proprio per cappellino non è che li monti tanto bene i capelli, io sinceramente. Anche questo qua si può proporre, per carità, giustamente tutto da decidere, e le idee sono sempre le benvenute. Io avrei preferito sinceramente, primo modo di pensare, una maglietta, una magliettina, un appolo, non lo so, una tipologia di maglietta, di vestiere che vada bene per tutti, di un colore abbastanza alla moda, che vada bene per tutti, giustamente con della scritta, che meno male, diciamo, nella maglietta, nella parte posteriore delle spalle ci sia una scritta abbastanza accentuata nei giusti modi, in modo da attirare anche l'attenzione, ecco, questo è il mio modo di vedere. Perché no, forse uno vuole fare il cappellino, giustamente si può proporre anche quello e senza nessun problema. Ecco, tutto lì, detto quello che penso, per carità. Giustamente anche accetto il tuo pensiero. Anche questo qua sarà messo in tavola e vediamo un po' tutti insieme, in alto un accordo. Sempre la priorità non litigare, perché serve per mettere sulla 27 tutti insieme, almeno per un giorno ti mettiamo la famiglia là, e tiriamo su un po' la situazione, ecco, senza litigare. Ma già non ce n'è litigi, Antonello, litigi bene o male, siamo quattro gatti, quindi litigi cosa... Passi, mi dirai che passi, una giornata diversa dagli altri e basta, anche perché c'è gente che ancora, per esempio, non si conosce in verticale e ce ne sarebbe anche il modo di conoscere, capito? E invece, come siete organizzati, cioè per gli apparati, antenne, roba del genere, per far vedere un po' le cose, come siete organizzati? Guarda, per il momento Antonello Pomponio, Ciucucciù, è disponibile, diciamo, ha un'antenna sua che può mettere tranquillamente, può montarla, ci pensa lui, senza nessun problema per l'antenna. La batteria ce l'ho io, dunque una batteria per la corrente l'abbiamo, e meno male, diciamo, ognuno porta, diciamo, il suo apparato preferito, in modo da metterlo in esposizione, poi si sceglierà quello che deve essere in funzione, ecco, in modo da farlo vedere acceso. Pur chi non ha la possibilità, i problemi di salute e qualsiasi altro problema, diciamo, che è costretto a stare a casa, diciamo, vuole giustamente partecipare, diciamo, dare, diciamo, il suo piccolo contributo, sta a casa, diciamo, un esempio stupido, siamo a Piazza d'Italia, Piazza Castello, giù a Central Tour, non c'è problema, quando decidiamo un poco da lì si comunica con la persona che sta a casa, ecco, per far vedere, diciamo, come funziona, diciamo, degli apparati, ecco, alla fin fine. Sì, sì, ho capito. E vabbè, Antonio, queste cose bisogna deciderli, cioè, una domenica magari, cosa ne so, trovarsi tutti e decidere, però, ti ripeto, Antonio, allora, se tu inizi a mettere in mezzo 250 persone, questa cosa non si farà. Allora le persone che organizzano devono essere due o tre, ecco, si decide, si fa, si organizza queste due o tre persone e gli altri mettono appresso, capito? E, se no non è tutti i piedi, eh. Se stai ad ascoltare tutte le 10 persone, 20 persone che verranno, non è tutti i piedi. Va bene, Antonio, detto questo io devo fare carica batteria, magari ci sentiamo dopo e già lascio tutto acceso, dai, abbasso il volume e me ne vado a farmi carica batteria. Perfetto, ti lascio andare, dai, io una cosa veloce veloce ti volevo dire, poi ti lascio le palle in pace. Niente, io sinceramente stare lì a essere io, per carità, non voglio assolutamente. Tutti devono fare la loro parte, capito? Non voglio nessuno, io sinceramente non voglio che nessuno comandi. Deve essere, almeno per un giorno, porca miseria, una famiglia, non deve essere nessuno che comanda, ognuno deve fare la sua piccola parte, tutti insieme, d'accordo. È una cosa, ripeto, abbastanza semplice. Dai, con la scusa, porca miseria, così non ci togliamo il pensiero per dire, ah, porca miseria, nessuno lo modula più, stanno abbandonando, no. Una piccola manifestazione, almeno 3 giorni in famiglia, senza che nessuno comandi, ognuno fa la sua piccola parte nelle sue possibilità, giustamente, mi ripeto, niente di impegnativo, tutto lì. A me fa piacere che partecipano tutti senza stare lì, ripeto, a litigare. Ognuno fa la sua parte, né comandi tu né nessun altro, tutti insieme comandano, tutti insieme, senza coordinata la situazione, ecco, che poi ripeto, è abbastanza semplice e niente di impegnativo. Ognuno porta quello che si sente di portare, gli si espone, una chiacchieratina in amicizia, e si organizzano bene le cose, capito? Almeno diamo uno schiaffo alla situazione, tutto lì. Deve essere già positivo, già in questo senso, ecco, proprio per togliere piccoli disguidi che sinceramente non ci dovrebbero neanche esistere. Questo è il mio modo di pensare, ecco. Antonio, là, è tutto da vedere, là. Ma comunque, attenzione, non è perché organizzano le due o tre persone e comandano loro, attenzione. Cioè, quando le cose si organizzano in 10, 20, 30 persone, a quello non gli va bene, a quell'altro non ci può venire, a quell'altro non va bene, e quindi, perché è stato già fatto una cosa del genere, quindi non ci andrà nessuno. Invece, cosa ne so, tu ti stai impegnando a fare questa cosa, ecco, ci sei tu come organizzatore, magari, cosa ne so, c'è Pomponio, c'è un'altra persona, il punto, si decide tutti assieme e tu la stai organizzando, non è però perché la stai organizzando tu, mica comandi tu, ci partecipano tutti e basta, hai capito, è sempre lì l'allegria, ma non è che perché l'hai organizzata tu stai comandando tu, hai capito, non è, tutto lì. No, perfetto, pienamente d'accordo, ma io voglio che anche tu, giustamente, chiunque partecipa, faccia la sua parte e metta quello che pensi. Noi siamo tutti d'accordo che poi alla fine, ripeto, non c'è niente di problematico, bene o male, ognuno c'ha, almeno in questo caso abbiamo, diciamo, la stessa idea, ecco, mandare avanti la 27, in modo che non muoia, già da lì siamo tutti insieme d'accordo, ecco, tutto lì. Vabbè, non c'è problema, anche in questo caso giustamente si mette anche la tua idea in tavola e tutti insieme si decide, siamo abbastanza grandi, bene o male. Beh, abbiamo chi più chi meno una quarantina d'anni, dunque siamo abbastanza cresciuti, dai. Dunque non ci dovrebbero essere problemi in questo caso. Ti lascio andare, dai, nel caso ci sentiamo più tardi. Appetito, già mi trovi sul canale 5. Ah, solo un'altra ultima cosa prima di andare a mangiare. Secondo me il canale 5 non va neanche bene. Non va bene perché chi non lavora, per esempio, in giornata, è un canale, diciamo, è di tutti, diciamo, ma è usato più che altro per i camionisti, diciamo, dal canale 5. Secondo me bisogna trovare un canale monitor che la gente, ecco, entra in quel canale sia di mattina sia di sera e il 5 si lasci libero diciamo per chi lavora con i camion e roba del genere. Solo questa precisione volevo fare, poi ognuno fa come crede, attenzione. No, perfetto, anche io condivido questo, ma bene o male ho visto che diciamo questi pochi di matti stanno rincontrando qui e dunque ho preso così il riferimento. Non c'è nessun problema, a me va benissimo. Se vogliamo andiamo a andare sul 10, se vogliamo andare sul canale 1, qualsiasi altro canale, non c'è problema. Il canale 5 si può lasciare libero, anche se, giustamente, come hai detto tu, è di tutti. Non c'è nessun problema, condivido anche questo. Dimmi tu un altro canale e io mi metto dove preferisci tu, senza problemi. E il 5 lo lasciamo libero. No, vabbè, questo si deciderà magari quando... quando ci riuniamo tutti assieme che, o anche magari ci passa parola, magari capita un bel QSO che ci sono tutti, sì, cioè da oggi un esempio ti faccio, da oggi ci rispostiamo nel canale 8, nel canale 10, nel canale 20. Ti ripeto, il canale 5 non è che ce l'hanno comprato i camionisti, ma ormai sappiamo benissimo che lo usano loro per lavoro, per indicazioni e tutto, ma secondo me non, gli va bene, non va bene parlarci sopra. Si prende un canale monitor e si sta lì, così sai che il canale 5 lo lasci per loro, te ne vai sul 10, te ne vai sul 15, te ne vai sul 20 e non disturbi nessuno, tutto lì. Va bene, dai, detto questo ti lascio, Antonio, che devo fare carica, dai. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no buona serata e buona continuazione. Prontissimo, ti ringrazio, dai. Allora io aspetto giustamente qua, poi chi entra, dai, ci mettiamo sul canale 10, così non disturbiamo. D'accordissimo, buona carica nel caso, se ne hai voglia più tardi, dai, ti ringrazio. Buonasera a tutti, buona carica, siamo a Semigliano, ciao a tutti. Ciao, ciao Gianlu, dai, sto chiudendo che andiamo a mangiare, dai. Buona serata, buona continuazione, riprendi. E io, buonasera, buona carica, adesso sono arrivato in questo momento. Ciao, ciao Lu, buonasera, ben sentito. Ci spostiamo su 10? Non c'è problema. Ma ci sono qualche corrispondente da lontano, stanno chiacchierando qua. Ma sinceramente da parte mia no, ma per non fare via disturbare, che diciamo un canale lavorativo, andiamo sul 10, dai, così non ci togliamo tutti i problemi, andiamo sul 10, ne abbiamo 40, bene o male, io ne ho 34 per il momento, usando il 68, dunque andiamo sul 10, dai, così non disturbiamo. Va bene. Questo gracciolio? No, adesso no. Esatto. Questo qui come sollevo il volume dell'altra radio che ho commutato l'antenna. Sì. Ma lo fa però, porca miseria. Positivi, dipende anche dall'amperometro dell'alimentatore, oltre che dallo smitter. Sì, confermo, dalla parte mia leggeri ma ci sono, sì, ce li hai, picchi positivi. Quanto è il segnale invece con questo qua, quanto è? Da parte mia, Santiago 8, radio 5, sempre nello smitter dell'Alan 68. Va più che bene. Va bene Antonio, tu ce l'hai tu hai? Io ho già fatto, sì, io ho già fatto. E tu stai rientrando, scommetto, sì. Sì, sto rientrando, mi aspettiamo un attimino i segnali di fumo. Bene, pronto. Rosicchio qualche cosettina, no? Perché un po' di merenda l'ho fatta verso le 6. Ci vuole, dai, io ho fatto una passata di ravanelli e un pezzo di formaggio e un bicchierotto di vino. E non va bene. Va più che bene. L'importante è riempire la pancia, dopo, pure se sono spine, l'importante è che sia piena, perché quando è vuota, allora è un problema. Eccolo, pienamente d'accordo. Beh, Oggi la giornata collaborativa, come è andata? Tutto bene? Sì, sì, a parte che si è messa a piovere ultimamente, verso le 7, 6:30, 7, insomma, è cominciato a dare una bella sfuriata. Scusa un attimo, Lucio, sono al telefono. Ok. Sono qua, Lu, a posto. Sì, Antone. Sì, ma stavo girando un attimo con la TV nel frattempo. Ok, un secondino, Antone. Vabbè, tranquillo. Millomi, di nuovo il QRM maledetto, ripartito di nuovo, fare una motosega, Varede. Lo sto sentendo già. In questa radio qua già è anche diciamo così un po' avara di segnale, là. Già me ne solleva 7-8 qua. Anzi, bugia. Questa è 3 o 4, l'altro è. Fortunatamente sei andato e partiva uno, guarda, sembrava una moto, leggermente accelerato, mi è arrivato un Santiago di 5. Ogni tanto risalgono le paranoie a questi disturbi, è allucinante, da un bel po' di anni che non riuscivo a sentire questi disturbi rompi scatole. Ecco qua. Certo. Ah, e questo è il maltempo, però, la pioggia. Lui è partito di nuovo, sì. Comunque guarda, ti volevo tenere informato che bene o male, fortunatamente diciamo per questa piccola manifestazione stanno uscendo le persone, diciamo, bene o male la maggior parte che vogliono partecipare. Dunque in questo caso già è una cosa abbastanza positiva. E tra una cosa e l'altra abbiamo tutto, adesso vediamo di decidere un giorno tutti insieme, giustamente, se vuoi partecipare. Anche tu gestiamo un giorno in cui incontrarci tutti insieme e decidere il posto e il luogo dove bisogna organizzare questa manifestazione. E piano piano sta prendendo piede, vedo che è abbastanza positiva e sono contento. Dai, nel caso, ripeto, ti tengo informato e la porta è aperta a tutti, giustamente. Sì, sì, ma io te l'ho già detto, per me un posto vale l'altro, fammelo sapere tempo utile perché così mi organizzo anche con il lavoro, capito? E giustamente tienici informato anche tu delle tue problematiche, quando è il giorno giusto. Dobbiamo trovare un giorno giusto tutti insieme, che vada bene per tutti, al momento giusto e al posto giusto. D'accordissimo, già cerco di tenerti informato, dai. Comunque già in partenza ti ringrazio per la tua partecipazione. Io non è che faccio un lavoro, capito Antone, che magari ti dico il sabato e sono libero, sempre libero, no? Non è così. Il discorso è che dovete cercare la maggior parte di più, quelli che sono liberi in quel giorno, e dopo gli altri si adattano. Purtroppo è così. Eh sì, poi giustamente, pienamente d'accordo su questo fatto, ma se troviamo il giorno giusto e che vada bene per tutti, meglio ancora. Giustamente prendiamo anche questo in considerazione, quello giustamente c'è poco da fuggire, ma se siamo tutti insieme che vada bene per tutti, è ancora meglio. Ma per essere 50 più 1, sai, vuol dire, cosa siamo? 15 siamo, ok, 8 e va bene là, e gli altri 7 si devono aggiustare, nel senso che si devono, come per me, mi devo con il mio lavoro, se capita che per esempio sono libero, va bene, quindi se no mi devo aggiustare, capito? Perfetto, ma per non stare lì giustamente a dare problemi nell'ambito lavorativo, che giustamente la cosa più importante che serve per andare avanti, quella è tutto un altro discorso, è la prima cosa, la priorità. Comunque, cioè cerchiamo di trovare la soluzione migliore per tutti, non ti preoccupare, bene o male, visto che già stai di nuovo anche tu riprendendo giustamente qua il tempo libero, dunque hai tutta la possibilità per rimanere informato. Ti chiedo scusa, faccio 5 minuti di bianco e arrivo subito, mi sta chiamando la mia signora. Va bene, ok, sono qua io intanto. Perfettissimo, lascio sul canale 10 allora. Avanti chi chiama Barracuda. Ciao già, buonasera, ascolta, ti chiedo scusa, una decina di minuti arrivo, ti mando una cosettina a casa, portando mia moglie e arrivo. Se hai un pochettino di pazienza, 10 minuti e sono da te. E poi fatti, perfettissimo, sempre sul canale 10, dai, così e il 5 non disturbiamo, va bene? Via già, ci sentiamo dopo allora. Gianni Capri 2 cambio. Gianni Capri 2. Orsi chiama Muros. Ah, a Napoli. Ok. Sì. Gianni, anzi, Orsi chiama Muros, cambio. Orsi chiama Muros, cambio. Via. Attento Gianni, Capri 2. E niente, la batteria ce l'ho io, dunque le sedie, sa, una cosa e l'altra, meno male, ognuno sta mettendo il suo tanto e stiamo realizzando, diciamo, questa piccola manifestazione. Bisogna decidere il luogo, il giorno e tutto quello che comporta. È abbastanza semplice, dunque, fortunatamente, piano piano, con calma, senza fretta, si sta movimentando, ecco, la situazione per cercare di dare vita alla 27. E dunque io chiudo la domandina ed è pronta a compilare. Poi venerdì, con giustamente l'idea che mi ha dato anche, come si dice, Gianni De Curumba, con la scusa che ho portato mia moglie alle 9:30 a fare la visita, scusa mia voce, mal di gola, mi avvicino alle porte centrali, mi faccio dare, diciamo, la domandina per la concessione, diciamo, quando una persona si avvicina, che l'informazione vuole intraprendere, e cerchiamo di convincerla e di accendere, diciamo, una piccola speranza per la 27, gli diamo anche la concessione stampata in modo da avere, diciamo, tutta la documentazione perfettamente in regola, ecco. Questo mi riprendi, mi avvicino alle porte centrali e ritiro, diciamo, la domandina, poi si fanno le fotocopie che verranno distribuite a tutte le persone che si avvicinano e ci chiedono informazioni, ecco. E dopo tutti insieme ognuno porterà un suo apparato per il modo che venga esposto. Ma il conto corrente per pagare le 12 euro? Perché avevo segnato per il minimo mia figlia, come senti, per la penna. E infatti, no, ecco, fortunatamente è qua. Ok. Allora, se me lo segno, dunque venerdì, ho scritto domanda, mettere domanda per la concessione, più diciamo, vabbè, come stai dicendo tu, per il versamento, quello lo ritiri direttamente alle poste, e dunque, quello va ritirato alle poste, dunque vado a Ossi a prenderlo. Perfetto, allora mi avvicino alle poste di Ossi domani e ritiro un po' di conto correnti, dai, in modo da, insieme alla domanda, diamo anche il bollettino per il pagamento. Più conto corrente, perfetto, ne prendo il più possibile, quello che riesco a rassicurare nelle poste di Ossi, dai, speriamo che no, non mi diano pronunce, non ci dovrebbe essere problemi. Allora, conto corrente. Allora, poste, Ossi, perfetto, domani mattina sto ritirando questi conti correnti, e pure li alleghiamo la domandina, perfetto, faccio anche questo, giustamente è una cosa che ci vuole per forza per essere in regola, perfetto, ok. Adesso bisogna chiedere sinceramente quanto è grande questo, diciamo, questo tavolino, questo appoggio. Penso ognuno porterà un apparato, penso due apparati, anche quelli giustamente bisogna decidere, dai, portiamo qualcosa, bisogna scegliere tutti insieme, qualcosa sempre, uno più bello dell'altro, dai, giustamente non è che ognuno si porta quei 20-30 apparati che ha, ognuno porta il tanto che vuole portare, o si decide tutti insieme cosa portare, ecco, anche quello giustamente va deciso a tavolino. Giustamente, deve essere abbastanza ben organizzata anche l'esposizione. E quando ci rimaniamo lì, ci andiamo. E anche quello giustamente già va deciso, bisogna decidere anche quello, il giorno, l'orario e giustamente anche quante ore. Ma vediamo a trovare il giorno giusto, il momento giusto e poi tutti insieme, ripeto, scegliamo le ore. Bene o male, tra una cosa e l'altra, così parlando, ma di, diciamo, deciso non c'è niente, ma tra una discussione e l'altra sembra che vada bene una domenica, arrivato a un certo punto, spero che vada bene anche per te, giustamente bisogna sentire anche le altre campane, però tra una cosa e l'altra sembra che domenica sia la più facoltativa, ecco. modo che non ci sia nessun disguido, nessun problema da parte di nessuno. Capito? Vedo che anche a te, lo so benissimo, non ti sembra vero realizzare questa cosa. Giustamente metti anche, diciamo, la tua collezione selezionata, sono sicuro che anche tu vuoi partecipare e dare il tuo contributo. Ci vediamo, ripeto, il giorno giusto che vada bene per tutti, senza nessun, che ci sia nessun problema già. Dunque, alla fine, se si prende un impegno tutti insieme, bisogna rispettarlo, o sbaglio? Solo che non lo so, secondo me, poi bisogna vedere il parere di tutti, e se andiamo un pochettino in ritardo in modo da approfittarne del periodo natalizio, ma anche quello giustamente da decidere, ma da una cosa e l'altra, bene o male, dopo Natale ci sono altre ricorrenti, fortunatamente, dunque se ne può approfittare, ecco. Per tra una cosa e l'altra, domanda, vedi, te lo tengo già presente, così c'è scritto. In questo istante c'è così, la domanda deve essere consegnata, compilata in ogni sua parte, corredata dalla documentazione richiesta almeno 60 giorni prima della manifestazione. Dunque giustamente ci sono dei giorni prestabiliti, ecco, tra una cosa e l'altra. Guarda, sinceramente non ti so rispondere, bisogna vedere un po'. E là si è arrivato a un certo punto, tra una cosa e l'altra, sì, a gennaio, però sai, se bisogna fare bene nel nostro piccolo, bene le cose, l'importante è che, ripeto, scegliamo il giorno giusto e il momento giusto, ecco, tutto lì, già tutti insieme, meno male, ognuno sta mettendo il suo piccolo, già una cosa positiva, già un inizio. Dunque, tra una cosa e l'altra, non lo vedo così tanto rilevante il giorno natalizio. Ripeto, dopo Natale, meno male, ci sono altre feste, dunque dobbiamo scegliere il momento giusto, ecco, adesso l'importante, stiamo iniziando piano piano, in modo che le cose vadano bene. Però purtroppo anche a me sinceramente sarebbe piaciuto il periodo natalizio, perché sai, lì all'emiciclo e dintorni, Sassari Vecchio, ci sono abbastanza bancarelle, e ognuno vende le sue piccole creazioni, dunque sarebbe stato bello, scusami, c'ho mal di gola, sarebbe stato bello esserci anche noi lì, ma mi sembra, diciamo, che questa cosa sia un pochettino in ritardo, in ricorrenza delle feste. Vogliamo ritrovare il giorno giusto già, al di fuori del periodo natalizio. Allora, ti può rimandare la sua inquadra, come sono anche, tanto che vengono 70 giorni, da qui, da qui, con la materia d'oro, diciamo che da qui della roba, e si può anche con un articolo che lo fa fare bene. Giustamente, in modo da anche non so, due o tre giorni prima del giorno prestabilito, ma guarda, già per il fatto del periodo delle belle giornate tocca aspettare da marzo, aprile in poi, ma bene o male vedo che sinceramente ogni tanto io nel mio ciclo, bene o male una due volte al mese me lo faccio un giro nel mio ciclo, Piazza Castello, anche se c'è, diciamo, un po' di freschetto, bene o male c'è una bella camminata lì, c'è abbastanza affluenza di persone, dunque vedo che lì non c'è tempo che tenga, la gente esce, capito? Dunque si potrebbe anche approfittare anche a gennaio, sai, con la scusa della domanda, già da lì c'è il tempo anche per organizzare e raccogliere tutto il materiale che serve, che è abbastanza poco per tirare su questa piccola manifestazione. Tutto lì, giustamente bisogna sperare anche nel tempo buono, bisogna guardare anche le previsioni del tempo. Dunque, tra una cosa e l'altra deve essere perfettamente coordinato la cosa, anche se nel nostro piccolo almeno un po' di organizzazione ci deve essere, ecco, ben studiata. Sì, ho capito. È una cosa bella, perché la gente magari viene la voglia di modulare. Sono più che convinto che, capito, la gente se vede i baracchini, chi ce li ha, io sono convinto che li tira fuori. È come se, ora ti posso dire, è una cosa che uno sta dando una cosa all'altro, come se diventa subito, capito, massimo. Speriamo, infatti l'intento è anche questo, dare un pochettino più di vita alla 27. Comunque domani cerco di organizzare per prendere anche i bulletini per il pagamento, così distribuiamo anche quelli, dai, diamo anche quello in dotazione, proprio per invogliare la situazione. Questo non ci avevo pensato, e domani mattina dunque mi prendo quest'altro impegno. La sua domandina ce l'ho, tutti insieme vediamo un po' di compilarla, e più i bollettini, e potete prenderne il più possibile là, alla fine. Ok, stavo dicendo a me, ma per un pugno cosa porta a proposito, oltre agli apparati? Al momento che era disponibile, senza nessun problema, di portare, diciamo, un piedistallo con una sua antenna, in modo da dare la possibilità all'apparecchiatura di modulare nel punto prestabilito, ecco. Poi io la batteria ce l'ho, poi come si dice, Giulio Dollaro ha già a disposizione, per quanto mi ha fatto capire, un gazebo, intanto per ripararci un pochettino sotto. A quanto pare partecipa anche Antonio Grobbe, non so cosa dovrebbe portare, dei tavolini, qualcosa del genere, qualcosa di abbastanza presentabile per appoggiare sopra le apparecchiature. Ecco, tutto lì. Poi vediamo un po' da cosa nasce a cosa, vediamo qualche altra idea. Gianni Doppiruma ha proposto di fare delle magliette, quelle giustamente sono spese a parte, dunque ognuno si sceglierà. Toccherà, per dire, mettere 10 da testa e si terrà la sua maglietta per avere tutti insieme che partecipa una divisa, là, mettiamola in questo modo, una maglietta, scegliamo il colore, scegliamo la scritta, tutto quello che comporta per dare anche una certa figura, ecco, all'associazione e alla presentazione di questa cosa qua. Dunque una maglietta aerografata viene sui 10 euro, ecco. Perché era vicente e già aveva i soldi, non l'ho visto da Badalena. con la scusa che ho ritirato la bambina ai vigili, mi ha detto mal di gola, mi sono detto la cinghia, l'ho accusato, ho acquistato più fusibili che mi servivano, stavo utilizzando, sta funzionando abbastanza bene, perfetto, il Midland. E lì ho visto in esposizione un Zeus, un piccolo apparato, sempre per la 27, poi c'erano anche in esposizione un MB più 5, sempre della ZG. E questo sto parlando di Fusaro. Poi fammi la cortesia, dammi la conferma, io la verità non mi ricordo, comunque tu mi hai detto che quello del Magico Alberman all'epoca modulava, confermi? Perché se così io domani con la scusa che vado alle poste vedo un po' per rintracciarlo e cerco di convincere, vedo un po' cosa ne pensa, se vuole riprendere anche lui, dai, cerco di dare il massimo delle mie possibilità per tirare su la situazione. Confermami se il Magico Aver, Antonello, modulava, così io domani lo cerco. Sì, la modulava, confermo, c'è dove il complesso di 5024 e anche un lineare come quello che c'è lui, che è smontato, che si è trasformato in una forza da verde. C'è un lineare a due tavoli, io che è toccato allora. Sicuramente nella documentazione del CD, comunque, adesso vedo un po' di cercarlo, il volo l'avevo pagato sui 42 euro, come vedete, adesso cerco lo scontrino, sui 42 euro, l'MB più 4, fa che l'MB più 5 venga 10 euro in più, 15 euro in più, comunque lì esposto lì da Fusaro, l'ho visto io stamattina, ve lo confermo io, perché sono andato a prendermi questi 5 fusibili, che sono venuti 30 centesimi l'uno, da 2 ampere 250 volt, di quelli lunghi. Diciamo c'ha due strumenti, indicatori ad ago e più due regolatori, dovrebbe essere condensatori variabili sia per l'uscita che sia per l'amplificazione, si è completo, due indicatori con ago e due regolatori manuali a pomello, sempre tipico nero con la mascherina argentata, sì, MB più 5, c'è l'esposto Fusaro. Sempre perfettamente d'accordo, ma ho visto, io ho notato, per mio modo di vedere, che bene o male la ZG, l'MB, sia più 4 che più 5, riesce ad adattarsi a qualsiasi apparato, ecco, sempre per la 27, non sono male con i microfoni, bene o male hanno una qualità a prezzo tra una cosa e l'altra. Quindi in questo momento io sto usando l'MB più 4, è vero che non ho avuto mai nessun problema negli apparati che ho io in dotazione, dunque già si difende abbastanza bene. Maledizione, scusami, stavo controllando ma non sono riuscito a trovare lo scontrino, ma secondo me tra una cosa e l'altra, guarda, non voglio dirti cazzate, poi forse ti faccio anche uno sconto come l'ha fatta a me, penso, guarda, non più di 60 euro dovresti portartelo via quel microfono, vedi un po', se ti interessa chiedi, non costa niente, almeno quello, però secondo me penso se una sessantina di euro dovrebbero bastare. Ah, l'MB più 5, lui come microfono che è lì in esposizione. Poi ripeto, c'è questo Zeus, che è un piccolo apparato, tutta la strumentazione c'è nel microfono, e poi un apparato per VHF per la banda marina, e alcuni portatili, niente di più, però se ti interessa l'MB più 5 è lì a disposizione. Thank you. sapere se riusciti a trovare questo offerto. Già, sto uscendo, sono via. Stai uscendo già. La moto per forma. Capito, no? Via delle tante cose. Cioè, la moto non è come se l'hai tu. Ah, ma diciamo, lo senti da fuori che c'è qualche moto accesa? Super chiarissima, stereofonica proprio come modulazione. Ho capito i baracchini, cioè Niente, io di questo Mario già so che diciamo è una persona che non lavora molto spesso, dipende anche dalle stagioni, perché sai benissimo che fa il cuoco. Sono un po' senza vedere, sicuramente pure lavorando, ma vedo un po' se c'è in paese, so anche dove abita. Provo a rintracciarlo a vedere se ha intenzione, giustamente, se ha anche la possibilità per acquistarsi almeno una piccola stazione, che abbiamo stimato con Antonello tra una cosa e l'altra, proprio un minimo per modulare, tra apparato, antenna, capo e PL, ci vorranno una centinaia di euro. Vediamo un po', cerco di tracciarlo e vedo un po' cosa mi dice. Thank you. po' di turbi, un po' di scariche. No, per carità, già, giustamente se tu hai la passione, per quale motivo devi pensare dopo, diciamo, la tua morte, che fine fanno? Per il momento, cioè, gli tuoi te li godi tu senza problemi, poi se con il domani i tuoi figli prendano la passione, ripeto, cerca di convincerli, sarebbe bello che anche loro entrassero nella frequenza, passare due chiacchiere, già non le mangia nessuno, non ti preoccupare. Partito il cronometro. Ma io la frequenza era capito come me, proprio appassionato, io questo non ho fatto il calcolo, che era impressione. Ma quando mai ma io sono salire di approvare proprio la nostra alta mistesa, non sapevo niente. Poi quando mai sono la passione che aveva stesso, ce l'ho portata anche in mani, come fa di te. Questo qui ho detto non potevamo più, ma in questo che non potevamo con te, ho capito la tua mano, poi è morto, eravamo grandi amici. Però che il figlio Carmen, del 79, capito? Capito lì da tutta la roba e non si è mai permesso a comprare, capito? Mi sembra che l'antenna che non fa le otto. Un minuto. Anche due. Minuto e 10, c'è il cronometro. La passione. Passo. Sì, già. Adesso aspetta che fermo. Ecco, minuto e 20. E niente. Sì, mi è entrato Pompone, avanti Pompone, lo passi tranquillamente. Buonasera comunque a tutti. E beh Gianni, come va? Di cibi maniaci, la verità, ma non ci vede nessuno, doveva fare una manifestazione di cibi maniaci e invece non ci vede nessuno a Baracchino. Non lo so la verità come mai, comunque sia, spero che si faccia bimbo. Antonello, sta cercando compagnia, se ne fu stato sposato Antonello saremo in due. Io anche in quattro, al limite. No, sto scherzando, l'ho capito Gianni, me lo auguro perlomeno. Vabbè, comunque sia, va bene, la verità. Perché passione, quello che è, non lo so, va bene, là. Beh, io giustamente, e chiamo via del tempo. Ho capito, dimmi. Sì, ormai va con bici in passione, lo sai. Sempre stessa lì, lo sai. Sempre lì. Sì, a voi, non mi ricordo. D'accordo, e purtroppo già il discorso dei 60 giorni così è scritto nero su bianco qua per questa per istanza per autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, purtroppo è quello. Comunque, meno male c'era la possibilità di non fare le cose in fretta e furia, che poi alla fine, quando le presenti, fanno ridere i polli. Con la scusa ne approfittiamo e facciamo qualcosa di concreto e di positivo, dai. Comunque già, ripeto, ho iniziato oggi a dare il mio contributo, domani faccio quello che tu giustamente mi hai proposto, che è la cosa migliore. Ripeto, domani vado alle poste, ritiro i conti correnti e poi venerdì le domandine per la compilazione, per la concessione, da lì si faranno le fotocopie che verranno distribuite a chi, diciamo, vuole intraprendere questa nuova passione, avvicinandosi al nostro vecchio. Tutto lì. Poi per il discorso di Pompuglio, dei maniaci, se vuoi partecipare anche tu, già la porta è aperta. E ora? Io sono sul serio, cosa ne pensi Antonio? È uguale, ragazzi. Andrà bene, non c'è problema per quello. Stavo chiedendo, se farò principe se abbia occhio, hai no? Sì. Quindi casa come sono, ce l'ho a casa, bello tranquillo. Ma se non vuole me la metto nel sistema. E non mi giù con l'apparecchio. Costa 300 euro, va al tappo, figurati. Non mi ricordo da chi, ma forse da te, mi sa da te, dico sono veramente dei bei scatoloni abbastanza luminosi, sì, l'avevo visto da te, sono delle chicche quelle che sarebbe bene tenere a fianco alle apparecchiature che sto usando adesso, fanno anche loro la porca figura. Io niente, per Antonello invece volevo chiederti, bene o male, se conoscevi qualche di un'altra OSI, perché domani proprio se riesco a rintracciare questo Antonello, adesso di cognome non mi ricordo come fa, aveva tantissimi anni fa Magico Alverman, si chiama così questo negozio di abbigliamento, dunque anche lui mi stava confermando Gianni che modulava, se riesco a rintracciarlo gliene parlo, vediamo un po' cosa mi dice, se mi puoi dare qualche altro nominativo in modo da rintracciarlo, vedo un po' cosa riesco a tirarne fuori, se riesco a convincerla a rimodulare di nuovo. E la verità non lo so io. Non ricordo più la verità. E vabbè, se nel caso ti viene in mente, tienimelo presente, ti ringrazio. Il problema è che non ricordo più. Il problema è quello. Che posso dire? Vabbè, comunque sia, là, al limite, facciamo così. Diamo il permesso all'altra gente di entrare nuova e se la abbia in culo. Così entra la macchina e ci va accompagnata, non posso dire. Boh, come, in realtà, di quanto tempo non lo tragano. Non mi interessa niente, ma non me lo ricordo per niente, che cosa è quello lì. Non me ne ricordo, va, la verità, non me ne ricordo, aspetta, un sacco di anni sono passati. Vabbè, ma adesso, a questo punto qui, scusa, anni, quindi non interessa proprio niente, si fosse qua lui. A cercare tutti i CD, uno, niente, ma come ti dice, ma cosa vuoi fare a me? Quello è il problema, capito? Dice così. Se vuoi stai chiedendo non lo so. Sto cambiando le cose, c'è il computer, c'è quello. C'è una festa di libertà a te, a questo punto qui. Antonio, scusami, non è che stiamo chiedendo l'elemosina, per carità, stiamo cercando di salvare, diciamo, questa passione, niente di più, non è che stiamo lichinando. Chiedere sinceramente non costa niente, o scambiare due chiacchiere, per vedere un po' cosa ne pensano, tutto lì, poi saranno loro a prendere la loro decisione, ma non, secondo me non stiamo comprando a nessuno. Così almeno se togliamo la mente, dice, oggi l'ho attaccato, non c'era nessuno. Cerchiamo almeno noi di dare un po' sulla situazione, tutto lì, ma ripeto, niente di impegnativo, vai per caso, ti facciamo una passeggiata per i fatti tui, e vedi quell'amico che all'epoca modulava, vi conoscete, una stretta di mano, due chiacchiere, pure butti fuori il discorso, vedi un po' cosa ti dice, tutto lì, ecco, niente di peso di impegnativo. Appunto, se lo sa fare, mi viene in mente a me. Usciamo assieme, facciamo un giro, diciamo a quelli che ci bigli una volta, si vuole riattaccare. Ci stai? Io ci sto, però lasciando perdere il bar, perché ogni volta che usciamo ne ritorniamo mezzi cotti, non va bene. Almeno sei il giorno che usciamo. Non lo dico che dico così la verità, il pettore la verità, quello stai dicendo, giusto? Allora. quelli viene tra una camminata e l'altra, se riusciamo a intracciarli, incominciamo a parlare, la gola incomincia a seccare, giustamente, hai bisogno di rinfrescarti, o sbaglio? Certo, certo. E quindi facciamo una sistema la gola. Ok, va. Facciamo così. Ah, benissimo, d'accordissimo, non c'è nessun problema, sono a tua completa disposizione. Avanti Gianni. Ci passa mezza mattinata, vedi, poi scusa se saresti abitata a Ossi, avremmo cercato, diciamo, i vecchi cibi ossesi. Io ci sono quelli, chi erano? Chi erano? L'unica abilità, ripeto, che mi ha dato questo Antonello, che il nome non me lo ricordo, comunque aveva il magico Averman, questo negozio di abbigliamento, già riesco ad intracciarlo. Poi per una cosa e l'altra già chiedo in giro domani, inizio a racimolare un po' di informazioni, ecco. Per una cosa e l'altra ci passa mezza mattinata. A voglia. Anche questo qua serve per collaborare per questa piccola manifestazione, va. Cerco di mettercela tutta nel mio piccolo. Va bene Antonetti, io ti saluto. Anch'io chiudo le trasmissioni, dai, ci sentiamo domani, non c'è problema, sul canale 10, così sul 5 non disturbiamo, niente, ti auguro buonanotte e buon proseguimento di serata, saluto a mia Scubi e alla tua signora. La conoscevo ora, quella, quando vuoi e come vuoi. D'accordissimo, ciao Antone, buonanotte, a domani. Ciao.